Suppongo che non ne possiate più neanche voi, a 5 giorni dall'elezione, di sentire esprimere dalla gente più strana l'auspicio, la speranza, la certezza, dipende, che il senatore Napolitano si dimostri per i 7 anni a venire al presidente di tutti gli italiani. È un'espressione, ne converrete, di cui si è fatto un abuso intollerabile. È tanto più fastidioso perché a rigore di termini quelle parole rappresentano non soltanto una scortesia, visto che insinuano inutilmente il dubbio che le cose possano andare in altro modo, ma anche un pleonasmo. Che l'ottimo Giorgio sia fin d'ora presidente di tutti noi lo garantisce il fatto stesso che all'alta carica sia stato eletto secondo le norme che la Costituzione prevede, che gli dà automaticamente il diritto e il dovere di presiederci, con i modi nei limiti che in quel testo sono definiti. L'espressione, da un punto di vista strettamente linguistico, è strettamente un semplice genitivo soggettivo. Vuol dire che lui presiede e tutti gli altri sono presieduti. E chiunque si provasse a metterlo in dubbio, si porrebbe automaticamente al di fuori, oltre che della comunità nazionale, dalle convenzioni sintattiche correnti, con grave pregiudizio delle possibilità di farsi intendere. Ciò premesso, spero converrete anche sul fatto che l'espressione non è reversibile. Come a dire che non è vero che tutti ci si debba riconoscere senza residui nell'augusta figura. Del presidente Napolitano riconosciamo la funzione naturalmente, siamo certi dello scrupolo con cui saprà esercitarla, non ci piove, ci rallegra. Quando ci rallegra il fatto che il suo avvento segni la fine di anacronistiche e discriminazioni ideologiche, ma ciò non ci obbliga a farne né il nostro eroe né il prototipo delle virtù civiche di cui il paese ha bisogno. Del resto, una delle qualità più apprezzabili di questo anziano e cortese signore, che ha svolto con diligenza e profitto un'onorata carriera di burocrate di partito ed è riuscito a passare senza traumi visibili dallo stalinismo al migliorismo, secondo uno schema evolutivo tipico del modello termidoriano che caratterizza la nostra sinistra, sembra essere proprio la non eroicità. Una certa evidente refrattarietà alla beatificazione. Il guaio è che quella di beatificare il presidente in carica, per un motivo o per l'altro, è una delle attività più care a questo paese. Si capisce anche, visto che non sempre gli ospiti del Quirinale si sono mostrati all'altezza dell'incarico, per cui basta che uno non convochi i comandi dei carabinieri ogni crisi di governo, non si faccia coinvolgere in oscure trame sotterranee, non faccia le corna in pubblico, non si metta a cantare canzonette ai vertici internazionali, non susciti sospetti di nepotismo, perché lo si assuma, come direbbe il poeta, al concilio dei numi indigeti. Diffidando dai politici di governo e nutrendo scarso interesse per quelli di opposizione, l'opinione pubblica ha sviluppato con gli anni l'acuto bisogno di un padre della patria super partes, in cui confidare, da mettere sugli altari, possibilmente da portare in processione per fargli benedire i bambini. E spinta da questo bisogno non si è neanche mostrata troppo schizzinosa in materia. Ha perdonato a Pertini la sua stizzosità e il suo narcisismo, a Ciampi la passione per l'inno di Mameli, ne ha esaltato la capacità di mediazione e moral suasion in misura tale che anche lui ne deve aver provato sotto sotto un certo imbarazzo. Persino una figura vagamente inquietante come quella di Cossiga, che negli ultimi anni del suo mandato ne ha fatte dette veramente di ogni, è stata riabilitata ex post. Il tipo oggi è considerato un personaggio autorevole, tanto è vero che il suo parere è stato richiesto spesso e viene ascoltato comunque con reverenza. Chissà se Giorgio Napolitano avrà lo stesso destino. Il fatto che la sua elezione, oltre che da una serie di ricostruzioni giornalistiche ai limiti della durazione, e sia stata segnata da fenomeni quali le interviste ai vicini di casa e la trasmissione in diretta delle opinioni del suo macellaio di fiducia, non fa esattamente sperare in bene. Ed è un peccato, perché di padri della patria ne abbiamo avuto parecchi e più che qualche occasionale discorso consolatorio non ne abbiamo ricavato, mentre è una figura un po' più defilata, un po' più distante, meno coinvolta nel rapporto mediatico con le masse adoranti, capace fare il suo lavoro con discrezione e pazienza se poi non sono contenti tutti, potrebbe riservarci qualche interessante sorpresa. Staremo a vedere.